Pane burro rock and roll, 7:31 minuti primi. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. Una volta avevo una sigla che diceva maybe you can hire Frigidaire. Invece adesso è pane, burro, rock and roll. Buona giornata amici e amiche. Benvenuti su Rock FM. No, non parleremo di Alberto Stasi questa mattina. No, non parleremo di Miss Italia. Siamo dei rocker chiusi a riccio nel nostro piccolo mondo antico. E così continueremo a fare. Non c'entrava niente questa, ma a volte capita di dire cose che non hanno senso. 335 100 77 77. Un saluto ad Andrea che si lamenta della scaletta, si deve svegliare, non addormentare Andrea, ce la mettiamo tutta, adesso abbiamo qualcosa anche per te. Siete fondamentali per lasciare le carogne nel traffico, ci proviamo caro. Un saluto a PG, ad Ale. Ti stupisci della gente che dice privaci? Dove lavoro io c'è gente che dice weekend al posto di weekend. Dove vai per il weekend? È bello però weekend. Sai che mi sa che lo dirò da sempre adesso. Questo weekend diamo le patenti davvero rocker. Wey! Yeah, All'interno di una trasmissione che trae così tanta energia dalla grande musica rock che ci viene concessa dalla programmazione musicale di Rock FM, non ricordare in questo 25 di settembre un grandissimo musicista che abbandonava la terra proprio quest'oggi, che chiudeva il suo contratto con la vita proprio quest'oggi. Si ricorda, piacciono Frick? Le sue iperboli. Grazie, grazie. Si ricorda che settimana scorsa salutammo un grandissimo bassista, il buon Pastorius. Sì. Quest'oggi salutiamo invece un grandissimo batterista, sicuramente tra i primi batteristi della storia del rock, tra i più bravi. Moriva quest'oggi nel 1980 John Bonzo Bonham, batterista dei Led Zeppelin. Ovviamente vogliamo ricordarlo, era la notte del 24 settembre, nel periodo in cui i Led Zeppelin stavano riprogettando il loro ritorno sulla scena. Il buon John Bonzo Bonham, che era come quasi tutti i veri rocker un po' una testa calda, si presentò ubriaco nella villa di Page a Windsor. Ormai troppo fatto per suonare, viene trasportato in una stanza e lasciato là a dormire. La mattina dopo viene ritrovato morto, soffocato dal suo stesso vomito. Spiegazione, la stessa spiegazione che hanno dato per la morte di Jimi Hendrix. Molti grandi hanno abbandonato in questo modo la terra. I Led Zeppelin, Jimmy Page in primis, decidono che senza di lui dietro la batteria non possono andare avanti. Il gruppo si scioglie, sebbene alla metà degli anni 80 si riunisca per qualche concerto con Phil Collins alla batteria e Jason, il figlio di Bonzo. Poi, tra l'altro, proprio in questi giorni c'è la notizia di una unica data che i Zeppelin terranno a Londra, e alla batteria ci sarà per l'appunto il figlio del grande John Bonzo Bonham, chiamato Jason. In coda vorrei aggiungere che davvero Bonzo Bonham ha in qualche modo segnato la strada a tantissimi batteristi in tutto il mondo. Il suo modo di portare, diciamo così, fra virgolette, il ritmo, di condurre il ritmo sul rullante, era unico, era assolutamente particolare. Dunque lo rendeva batterista straordinario, incredibile. Al di là di tutti i virtuosismi dei funamboli della batteria, lui era un grande, grandissimo, particolarissimo, specialissimo tempista. Un saluto che non avremmo potuto non fare da Pane, Burro e Rock and Roll al mitico Bonzo. Lui, John Bonzo Bonham. piccolissimo frammento tratto da The Song Remain the Same, la canzone Moby Dick, che in realtà dura in questa registrazione live quasi 14 minuti, brano nel quale i Led Zeppelin erano soliti lasciare Bonzo, questo lunghissimo assolo sulla batteria. Che tocco, ragazzi, Immagino chi si è svegliato solo adesso con l'assolo di Bonzo. Potrebbe essere una buona idea, Mettersi come suoneria un assolo di Moby Dick. Mi sveglio coi tamburi. Era obbligatorio ricordarlo. Diretta di Pane, Burro e Rock and Roll, 7:42 minuti primi. Oggi abbiamo una scaletta veramente dura da rispettare, anche perché avevo appunto una domanda da farvi e non so come porvela. È difficile affrontare questo argomento e volevo affrontarlo verso le 8, quando andremo con il brano Sveglia, scelto ieri ufficialmente dal Rocky Horror Picture Show. Ieri vi abbiamo fatto svegliare con il Time Warp, quest'oggi in teoria dovremmo farvi svegliare con un'altra canzone. Succede questo, oh, basta, confesso, vado, ormai sono entrato in argomento, proseguo. Un'amica che in realtà partecipa attivamente a questa trasmissione radiofonica, la nostra grafica di riferimento, mi ha fatto notare una cosa ieri. Ha sentito la puntata, ha detto: complimenti Ariele, si è riferita appunto al brano del Rocky Horror Picture Show. Ieri abbiamo programmato il Time Warp, ho visto che a molti di voi la cosa aveva fatto piacere, allora vi ho proposto: cosa dite? Metto sempre il Time Warp o metto tutte le altre canzoni? E lei mi ha fatto notare che sono domande chiuse queste. Cioè, sostiene che se uno speaker radiofonico vi fa una domanda così, è ovvio che vi sta imboccando la risposta. Quindi stiamo... Stanotte non ho dormito perché ho avuto un dubbio di democraticità mediatica proprio. Nel senso che io non posso porre la domanda in un altro modo. Al massimo posso non farla, ma se devo chiedervi di scegliere tra un brano o tutto il disco, io ve lo devo chiedere così. Quindi, ragazzi, io ho perso il sonno. Perché o mi spiegate come fare una domanda libera, in comunicazione totale, total communication, oppure... Che fa figo, ho detto, namergiano? Sì. Oppure no, oppure ufficiali, i mass media non sono democratici, perché se uno vi fa una domanda da un media, voi rispondete così. Cosa ne pensate? Posso chiedere cosa ne pensate o direte no, hai torto, così a priori? Sta già venendo il mal di testa, troppo presto. Proseguiamo con gli Zombies, che è meglio. She's not there, lei non è qui. Well, no one told me about... She lied. Well, no one told me about her. How many people cried? But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had to. Told me about her. What could I do? Well, no one told me about her, though they all knew. But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted, the color of her hair. Her voice was soft and cool, her eyes were clear and bright, but she's not there. Ringraziarvi per aver aderito alla campagna Salviamo la cartolina dallo strapotere dell'SMS del computer e affini. Come possiamo fare per ringraziarli se non salutarli uno per uno? Uno per uno, uno, un saluto a ciascuno. Andiamo quest'oggi a occuparci degli amici toscani, una tripletta, sì, di cartoline che ci arrivano della serie dalla panoramiche, cartoline panoramiche. Bravo, partiamo da Firenze. Mi porti un bacione a Firenze, qui questo è il Ponte Vecchio, direi, sì, per sì, forza. Sì, sì, il Ponte Vecchio. Ponte Vecchio, esatto. È Alessandro Forza Viola che ce la spedisce. Bravi, oltre ad allietarci la giornata con grande musica, vi fate promotori di salvaguardare tradizioni che stanno scomparendo. Grande radio, grande il messaggio lui è arrivato, Frick, è innegabile. Grande viva lui, grande lui. Viva Firenze, restiamo, viva Alessandro. Restiamo in Toscana con il Cipresso. Questa è una cartolina che fotografa un cipresso in mezzo a un campo sconfinato. Toscano. Il cipresso Toscana ce la spedisce, vediamo un po', Marco, che ci dà anche il suo indirizzo, forse perché rivuole indietro la cartolina. Cordiali saluti a Frick Ariel dal mio amico Cipresso, lui sì che è un vero rocker, ha pensato bene di nascere dove voleva lui. Che spirito libero, ha capito Frick? Sì. Con questa immagine voleva tra l'altro, scusi, da dove viene? Questa sempre da Toscana, da se non sbaglio in Pruneta, e guardi, sì, qua, sì, da, sì, dove, sì, arriva la prossima, da Prunetta, non c'entra niente, no, da Impruneta e Prunetta, insomma c'è una certa non mi arrampicherei in questa cosa, secondo anche me c'è perché un filo di assonanza. Guardi, la smonto subito: Impruneta è in provincia di Firenze, mentre Prunetta, dove ci trasferiamo adesso, è in provincia di Pistoia. E allora è sempre Toscana. Io avevo colto un'assonanza un po' c'era. Andiamo in questo scorcio caratteristico, bellissimo tra l'altro. Lo una descrivi. porta, si una tratta fontanella. Di un casale probabilmente, sì. E con una fontanella davanti a una porta. Oh, ma che bello. E sulla sinistra una simpatica ruota antica, sì, ruota con di carro floreale, con fiori. Fantastico. Ecco. Andiamo a leggere. Agosto è secondo il volere del Signore. Ops, del maestro Fricantoni e dell'Ariele. Ecco una cartolina anche da questo posto assurdo. Era partita pesante come cartolina, è tornata sulla terra. Ma secondo, sì, voi è abbastanza rock riuscire a trascorrere una vacanza in un luogo che ha simili scorci caratteristici? Sì, Alessandro, pensiamo. Beh, di sì. Sì, però si nota anche una certa resistenza da parte dell'Alessandro, che sì, si è trovato a Prunetta e dice: ma qua mi trovo, qua mi devo adeguare, esatto, qua devo passare la mia vacanza. In me, però resisti, sei stato grande comunque a scriverci. Grazie, grazie, grazie, grazie, vi saluteremo tutti. Perché tutti siete stati fantastici, tutti avete dato prova di voler salvaguardare la cartolina dallo strapotere degli SMS del computer. We'll be right back. through the sorrow, all through our splendor. Don't take offense at my innuendo. Splendida forma per questa cavalcata, per questa innuendo alle 7 e 57 minuti primi, a pochissimo dalla seconda sveglia anche di quest'oggi. Pane, burro e rock and roll, vi sveglieremo con Rocky Horror Picture Show. Intanto un po' di lamentele riguardo alla domanda con la quale vi avevo lasciato prima di dedicarci alle cartoline postali. Fatti meno paranoie e dormi la notte, è il consiglio di qualcuno. Ariel, non fare queste domande alle prime luci del mattino. Andiamo a farci due birre che poi si ragiona, propone un amico fiorentino. Alle 7.57, dai, magari salto. Ieri sera ho guardato per l'ennesima volta Lo chiamavano Bulldozer, con passione. Secondo te, Ariel, è un po' rock questa cosa, Sam? Ma certo, ma sì, tutto quello che fate con passione è rock. Come invece è sicuramente rock quello che mi scrive Cla. Quanto è rock pulire la cacca del cane in corridoio alle 5 del mattino? Molto, molto. Un saluto anche a Udo, contento dell'assolo di Bonzo Bonham. Giustamente il metalmeccanico da Zena mi fa notare che questo settembre è un mese abbastanza sfigato, perché fra due giorni sarà l'anniversario della morte di Cliff Burton. Ce ne eravamo accorti anche noi, caro metalmeccanico da Zena. Oh, vediamo, noi intanto gli almanacchi andiamo avanti a farlo.